Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, questa è Radio 24, il pomeriggio di Radio 24 con Italia in controluce. Stiamo confezionando per voi reportage su fatti di stretta attualità al mattino nella pillola delle 6.30 di pomeriggio, a quest'ora per le inchieste più lunghe. Dunque proseguiremo il viaggio nella politica italiana con l'UDC e anche con le primarie del centrosinistra. Torneremo ancora sul caso Penati raccontando cosa sta dietro l'affare della Milano-Serravalle. Altri temi caldi sono la criminalità economica a Roma, le iniziative dell'antiriciclaggio del denaro sporco, i ricercatori italiani all'estero, gli indignados in Spagna e molto molto alto ancora. E ora cedo la linea a Piera Ceci per Scuola in Controluce. Scuola in Controluce. Tutti ricordate, credo, che il 31 ottobre del 2002 una scuola uccise 27 bambini e una loro insegnante. A distanza di 9 anni ci siamo chiesti e ci siamo interrogati che cosa realmente fosse cambiata da quel 31 ottobre del 2002. Dopo le tantissime promesse fatte dai tanti politici venuti in quel territorio di San Giovanni di Puglia. Dobbiamo dire con molta tristezza che pochissimo è stato fatto. Tanto è vero che l'Aquila ci insegna, Rivoli e tante altre tragedie vissute negli ultimi tempi in questo territorio, in questa nostra Italia. Davvero amare le parole di Antonio Morelli, presidente del Comitato Vittime di San Giuliano di Puglia. Parole amare che dovrebbero essere un monito per la nostra classe politica, seppure alle prese in questo periodo con la crisi e i soldi che non ci sono. E non lascia ben sperare il nono rapporto di Cittadinanza Attiva sulla sicurezza nelle nostre scuole. 88 gli edifici monitorati in 13 province e 12 regioni. Ecco la conclusione nelle interviste raccolte da Francesco Marinelli. Partiamo dalle parole della responsabile scuola di Cittadinanza Attiva, Adriana Bizzarri. Da questo nono rapporto che anche quest'anno Cittadinanza Attiva ha realizzato emerge purtroppo una situazione per nulla confortante, come anche era successo lo scorso anno, su vari fronti. Da una parte proprio la sicurezza strutturale, quindi l'assenza di certificazioni di agibilità statica e di prevenzione incendi per il 40% nel primo caso, per il 28% nel secondo, coincide sia in riferimento al nostro dato su un campione di edifici scolastici, ma anche purtroppo in relazione allo stato delle scuole a livello nazionale. Accompagnati a questo c'è l'assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, e questo è un grosso problema perché una scuola su tre lamenta il fatto che l'ente proprietario, comuni e province, non ottemperino tempestivamente alle loro richieste, in molti casi, nella gran parte dei casi, e in molti casi neanche rispondano. Questo vuol dire che problemi inizialmente magari che possano sembrare marginali o di lieve entità, di fatto lasciati andare per mesi e anni, provocano distacchi di intonaco, crolli di controsoffitto, distacchi di solaio o crolli di tetto. Questo è un grosso problema a livello strutturale. Se a questo aggiungiamo che il 55% delle scuole sono in zone a rischio sismico di diverse entità, e chiaramente il dato si aggrava ulteriormente. E come fa a non preoccupare questo dato? Una scuola su due non ha il certificato di agibilità statica. Questo significa che se ci fosse un terremoto non sappiamo se resterebbe in piedi o quali danni potrebbe riportare. E da questo punto di vista San Giuliano di Puglia dovrebbe insegnare qualcosa, così come l'Aquila. Il 6 aprile 2009 9 ragazzi morirono sotto le macerie della Casa dello Studente. Carlo Fonzi, dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Ottavio Colecchi dell'Aquila. Noi sapevamo, ovviamente, noi presidi, lo sapevamo. Sapeva l'ente, gli enti che gestivano le strutture scolastiche, comuni e provincia, sapevano qual era la situazione dell'edilizia scolastica. Non era ottimale perché molti interventi erano stati rinviati, alcune scuole erano state collocate nel centro anche in palazzi ristrutturati, ma storici, quindi non adeguati ad ospitare scuole, e sono soprattutto quei palazzi che sono crollati. E dicevo, è stata una fortuna nella grande disgrazia che il sisma sia avvenuto di notte, altrimenti avremmo probabilmente pianto molti più ragazzi. Ma non possiamo sempre affidarci alla fortuna, perché i terremoti non sempre aspettano la notte per verificarsi. Un allarme questo che arriva anche dalla Protezione Civile. Franco Gabrielli, capo dipartimento della Protezione Civile. La ristrettezza delle risorse non può assolutamente porre questi temi in una seconda battuta, perché nelle scuole ci vanno i ragazzi, nelle scuole ci sono i figli di questo paese, e quindi credo che tutti, dalla politica alle istituzioni, a questo tema debbano rivolgere una particolare attenzione. Se le risorse sono poche, allora bisogna fare delle scelte, ma comunque bisogna farle queste scelte, bisogna fare delle scelte in termini di priorità. Il Dipartimento ormai da tempo è impegnato con le sue strutture, con i suoi tecnici, a fornire tutta l'assistenza del caso. Un passo importantissimo nel solco della importanza delle scelte è quello che stiamo facendo con la microzonazione sismica, perché questo consentirà di fare interventi ancora più mirati, perché oggi il paese è diviso in zone di sismicità, e con i proventi, con i denari stanziati dall'articolo 11 del decreto 39, quello che è noto come decreto Abruzzo, dalla scorsa annualità abbiamo cominciato a finanziare questa microzonazione sismica. La microzonazione sismica ci consentirà di andare nello specifico della realtà dei territori, e a quel punto forniremo ulteriori elementi per andare a scegliere le scuole tra le tantissime, come dicevo prima, che hanno bisogno di maggiori interventi, di maggiori e più celeri interventi. Dunque qualcosa si muove, ci sono anche amministrazioni virtuose che, lo ripetiamo, seppure in tempi di vacche magre, decisamente magre, hanno deciso di investire nella sicurezza degli edifici scolastici. Elena Malaguti, assessore all'istruzione della provincia di Modena. La provincia di Modena da 10 anni ha cercato di gestire il tema delle risorse dedicate alla scuola in modo partecipato e condiviso con i soggetti che ruotano intorno a questa realtà, che è quella delle autonomie scolastiche. Per dare gambe alle autonomie si è giunti a una convenzione sottoscritta dalle autonomie scolastiche stesse e dall'ufficio scolastico provinciale, ex provveditorato, che riguarda sostanzialmente la qualificazione, che riguarda l'allocazione delle risorse, che riguarda anche la definizione di standard, di parametri oggettivi in base ai quali poi stabilire la necessità di nuovi spazi o viceversa, laddove possono essere eccedenti in alcune autonomie scolastiche, di trasferirli in altri. L'aspetto fondamentale, a mio parere, è il fatto di aver attuato a seguito della legge 23, che attribuiva alle province molti edifici che provenivano dai comuni che richiedevano interventi perché erano in condizioni non ottimali, di aver attivato l'anagrafe, quindi un censimento informatizzato di tutte le aule a disposizione, di tutte le risorse a disposizione e ovviamente del numero di alunni. Fatto questo, si è reso possibile quindi individuare le priorità. L'altro aspetto importante è la allocazione di risorse, di un budget definito sulla base di questi parametri, alle scuole subito ad inizio d'anno per la manutenzione ordinaria. Quindi le scuole dispongono di questo budget che possono gestire in autonomia. Questo porta a non solo responsabilizzazione, perché i dirigenti hanno l'onere e la responsabilità, ma soprattutto a un rafforzamento dell'autonomia degli organismi collegiali della scuola, insomma a una gestione diretta da parte di chi vive nella scuola dei propri fondi. E ad impegnarsi sul fronte della sicurezza delle scuole non sono solo associazioni come Cittadinanza Attiva e amministrazioni, sono anche loro i diretti interessati, gli studenti. Sofia Sabatino, della Rete degli Studenti. Come studenti noi siamo i primi a subire il peso dei governi che in questi anni hanno disinvestito nelle strutture pubbliche e quindi nell'inefficienza delle strutture scolastiche, sia appunto nei casi limite, quindi in quei casi in cui ci sono dei crolli e quindi anche la nostra salute viene messa in discussione, sia nei casi invece di normalità in cui comunque la sicurezza e l'efficienza degli edifici scolastici è praticamente inesistente, per cui noi abbiamo lanciato una campagna anche parallela a quella di cittadinanza attiva che si chiama Salviamo le nostre teste, che vuole proprio denunciare e mettere al centro del dibattito pubblico la questione dell'edilizia scolastica. In particolare lo faremo con delle foto che fanno venire sia le situazioni per esempio di sovraffollamento delle classi, caso più eclatante sicuramente è quello di una scuola di Modica in cui ci sono 51 studenti. Italia in Controluce, la seconda edizione, torniamo lunedì alle 6.30 su Radio 24.